studio e insegno sociologia della famiglia. Vi chiedo scusa anticipatamente, mi trovo un po' in imbarazzo, ma lavorando a Bologna, vivo però a Modena e risiedo a ridosso del parco che si chiama tradizionalmente Parco Ferrari, ma che è salito agli onori della cronaca come Modena Park, che è un nome inventato per l'occasione, non esisteva questo nome, che ospiterà da stasera fino a sabato il concerto di Vasco Rossi. E mi scuso perché se uno non vive a Modena non può capire cosa sta succedendo nella nostra città, però io ho ricevuto da un mese la lettera del sindaco e ho dei divieti precisi, quindi se oggi non rientro a casa in tempo non riesco più a rientrare a casa. Non ci crederete, fidatevi, purtroppo non ci voglio credere. Mi dispiace da un certo punto di vista che sia oggi la mia lezione, perché secondo me è un caso emblematico di negazione dei diritti civili, sociali, familiari, quindi sarebbe... Diceva, l'avremmo ospitata. Sono però anche mamma, quindi devo recuperare anche un cucciolo che non è in grado di badare a se stessa prima, insomma, quindi... io cerco di iniziare subito, cerco di ritagliare il tempo per alcune riflessioni, alcune suggestioni sulla base del titolo che mi è stato affidato, e cerco anche di tenere un tempo che è quello che di solito mi piace di più, mi dà più soddisfazione, che è quello dello scambio e neanche delle domande, delle considerazioni. Dovesse comunque emergere qualcosa successivamente, sperando di sopravvivere all'evento, io comunque continuo a esistere, sono a pochi numeri civici da qui, quindi anche con il contatto mail eccetera sono assolutamente a disposizione nel caso dovesse emergere comunque qualcosa, qualche riflessione, qualche chiarimento. L'ultima indicazione comunque è che, anche se vi ho aperto con questa precisazione, io non ho problemi nel caso in cui mi interrompiate anche mentre parlo, non è un'interruzione. Se qualcosa non è chiaro, vi viene in mente qualcosa in quel momento che volete chiedere, volete dire, volete osservare, ben venga. Vi ringrazio per questo invito, per me particolarmente stimolante, perché come dicevo a Teresa mentre aspettavamo, quella che ho preparato per oggi non era una lezione in un qualche modo pronta, ma l'invito che mi avete fatto mi ha costretto ad approfondire, a cercare di mettere insieme queste tre parole: famiglia, cura e diritti. Quindi spero che comunque queste riflessioni che ho messo insieme non sono totalmente sistematizzate, ma mi hanno costretto a sforzarmi molto, possano risultare a voi utili. Forse mancherà quello che è emerso fuori, un po' il rischio è quello che siano delle riflessioni che mancano di un riscontro immediato nella realtà. Se questo dovesse avvenire mi scuso, ma credo che ci siano le basi per poter approfondire. E credo che l'opportunità che questa scuola dà a noi, ma docenti, insomma chi interviene qui, e anche a voi, è proprio quella di una prima riflessione, senza questa parola che è la teoria, a volte si fa fatica a dar seguito all'azione. Benissimo, allora, qual è il filo? Professoressa, si è presentata da sola, mi sembra, io aggiungo solo una battuta. Quando sono andato all'università, ho parlato con Pierpaolo Donati, che è un maestro sociologia della famiglia riconosciuto ormai a livello internazionale, e mi ha detto: ormai sto andando in pensione, vi consiglio la professoressa che è bravissima, no, e vi farà. Allora io non esageriamo, di così non mi sento più. La raccomandazione del professor Donati, ho invitato subito la professoressa a tenere. Non aggiungo altro. No, non sono professoressa, Elena va benissimo e spero che questa riflessione sia utile. Allora, qual è un po' la struttura di questo intervento, che come vi ho detto non ha nulla di preconfezionato? Ho cercato innanzitutto, com'è il mio modo di procedere di solito e spero vi sia utile anche a voi, di chiarire appunto l'origine e il significato sociologico di queste tre parole: famiglia, diritti e cura. Perché senza mettere a fuoco e secondo me non l'avete fatto finora, giustamente perché vi siete occupati di altro, senza mettere a fuoco quali sono le funzioni sociali della famiglia, perché sociologicamente emerge la questione della famiglia, cosa vuol dire parlare di diritti, cosa vuol dire parlare di cura e di diritti alla cura nella famiglia, anche considerazioni magari apparentemente più utili con un risvolto pratico rischiano di essere infondate, e io per prima, per ragionare, ho bisogno di farmi una chiarezza in questo tipo, proprio anche a livello dei concetti. Quindi la mia idea è di partire da questa idea qui, che appunto è tutto un po' il contributo, il portato che mi viene dal mio maestro, che è il professor Pierpaolo Donati. Che cos'è, che già qui la domanda è mal posta, la famiglia? La famiglia innanzitutto non è una cosa, però ha un ruolo e un significato sociologico ben preciso. Cerchiamo di capire chi è, che cos'è, come nasce, perché nasce sociologicamente la famiglia e perché nei nostri discorsi quotidiani utilizziamo questo termine dando per scontato che tutti ci capiamo. Se dico torno nella mia famiglia, ho una famiglia, mi prendo cura di una famiglia, è tutto chiaro nell'interlocuzione quotidiana. Quindi, però, come sociologi e come docenti non diamo nulla per scontato e cerchiamo di capire cos'è questa famiglia. Per farlo adottiamo le lenti del sociologo e in particolare di uno studioso francese che è nato nell'inizio secolo e che ci ha purtroppo abbandonato nel 2009, ma lasciandoci una grandissima produzione, che è Claude Lévi-Strauss. Probabilmente l'avete già incontrato, giusto? E nel suo lavoro, cosa? Dico, grande antropologo. Esatto, antropologo, però sapete che la sociologia è debitrice a tante scienze sociali, la filosofia, tra cui anche l'antropologia, quindi l'ha assunto come sociologo a pieno titolo. E Lévi-Strauss, appunto, come ci ricordava giustamente il dottor Moruzzi, antropologo e quindi come tale ha girato un po' tutte le latitudini in diverse realtà, in diverse culture. Nel suo peregrinare a un certo punto si pone questa domanda: se l'universalità, cito testualmente dalla traduzione italiana dei suoi lavori, se l'universalità della famiglia non è effetto di una legge naturale, come si spiega che la si trova dappertutto? Cioè lui, andando ovunque, in ogni latitudine, in ogni cultura, trovava degli elementi comuni che, con opportune differenze di linguaggio, venivano identificati come famiglia. Allora lui, come antropologo, si dice: non è che allora questa organizzazione qui, questo modo di stare insieme degli individui, non ha delle radici, non affonda le sue basi in un sostrato che prima di essere sociale è naturale, ha a che fare con il sostrato naturale e poi viene assunto nelle diverse culture? Se la relazione sociale che chiamiamo famiglia, nella sua configurazione di uomo e donna con una discendenza, uniti da un patto pubblico che si chiama matrimonio, che li lega alla responsabilità genitoriale, creando una rete di diritti e di doveri verso la parentela e la società, non è una necessità dello strato fisico o biologico della realtà, come può essere che essa sia un universale simbolico, un fatto, una realtà che posso vedere, osservare, sociale, praticamente presente in tutte le epoche, in tutte le civiltà? Quindi lui osserva quali sono gli elementi che ritrova: il fatto che c'è una differenza tra i sessi, c'è un uomo e c'è una donna, che questo uomo e questa donna sono riconosciuti come uniti, come vicini, come accomunati da un qualcosa che chiamiamo matrimonio, ma che è un atto pubblico che pubblicizza il loro stare insieme, e che sono legati da una serie di diritti e di doveri verso i loro discendenti, verso coloro che loro generano attraverso l'unione sessuale, e verso coloro che vengono prima di loro, gli stanno alle spalle, ovvero i cosiddetti parenti, la genealogia, che hanno una serie di responsabilità, quindi di diritti e di doveri verso questa realtà. E la dimensione dei diritti e dei doveri è sancita dalla pubblicizzazione, dal rendere pubblico il loro legame, la loro unione. Questi elementi si ritrovano in tutte le realtà, in tutte le società. con poi delle organizzazioni specifiche peculiari di quella cultura, ma questi elementi che vi ho riportato, l'unire i sessi, l'unire le generazioni, il pubblicizzare quest'unione e far sì che da quella unione sia chiaro a tutti che derivano diritti e doveri, è un elemento comune. La risposta, dice, è la seguente: perché ovunque e in ogni tempo è stato necessario che le relazioni tra i sessi fossero ordinate in un certo modo, così da poter predisporre un quadro simbolico e sociale. Questo fatto qui, naturale, per cui un uomo e una donna che si uniscono, potenzialmente danno origine a degli esseri umani che nascono troppo deboli, nascono in un qualche modo prematuramente per badare a se stessi, crea delle necessità sociali di ordine. Ok? Molto chiaro. Nasce un bebè, non è capace di badare a se, un neonato non è capace di badare a se stesso, non è capace di prendersi cura di se stesso, c'è qualcuno che lo deve fare per lui al suo posto. E questa cosa non è una cosa necessariamente morale o buonista. Si deve prendere cura perché gli vuole bene, perché lo ama, perché è la sua cultura. No, perché è un fatto naturale. Se non si prende cura di quel nuovo nato che da solo non ce la fa, quel nuovo nato viene meno. E quindi, e se tutta una serie di soggetti iniziano, di coppie potremmo dire, iniziano a non prendersi cura di questi nuovi nati, si crea un problema di ordine sociale, perché abbiamo tanti esseri umani non capaci di badare a se stessi, che rischiano di morire o che rischiano di essere imputati a qualcuno che se ne deve prendere cura. E questo qualcuno che se ne deve prendere cura, chi è? La società dice, è chi gli ha dato, chi lo ha in un qualche modo generato. Deve la società poter, per questioni, ripeto, non caritatevoli, non morali, ma questioni proprio di ordine, di necessità dello stare insieme, della comunità, trovare qualcuno a cui imputare questo dovere di cura. Fin qua è tutto chiaro? Dal punto di vista sociale, la famiglia può essere definita quindi come quella relazione sociale, quel modo di relazione, modo di stare insieme, di unire le persone, un modo specifico, peculiare. Se voi leggete i contributi di Pierpaolo Donati, alcuni sono anche particolarmente divulgativi, accessibili proprio per questa volontà di far arrivare un po' le sue idee. Trovate l'espressione virgolettata che dice una relazione sui generis. Sui generis vuol dire che ha un genere, delle proprietà sue che altre relazioni non hanno. Quindi la famiglia, quella relazione sociale peculiare che lega in un certo modo e in un certo ordine il problema del tempo. La società ha un bisogno di ordinare il tempo, chi è che viene prima, chi è che viene dopo, come organizziamo il fluire del tempo, e quello della differenziazione sessuata, ci sono uomini e ci sono donne. Lega insieme quindi la famiglia, sessi e generazioni, attraverso come fanno a stare insieme i sessi e le generazioni nella famiglia, attraverso delle norme, delle regole specifiche che hanno la loro matrice nella reciprocità e nel dono. Quindi la famiglia è una relazione sociale, piena, peculiare, sui generis, che ha delle funzioni che ha solo lei e altre relazioni non hanno, la relazione amicale, la relazione lavorativa, non hanno. E perché tiene insieme la differenza sessuale, organizza il fluire del tempo, stabilisce chi viene dopo, chi viene prima, generanti e generati, e queste persone che sono legate insieme da questi rapporti si muovono tra di loro attraverso delle regole che hanno a che fare con la reciprocità e il dono. Non è una relazione lavorativa per cui io ti do cura, ti do cibo, ti do qualunque cosa nella relazione e pretendo che tu in cambio immediatamente mi dia una ricompensa. Non è una relazione che appartiene al mondo del economico, del mondo del mercato, dove ci sono scambi immediati di equivalenti. Ci sono altre regole, altre logiche. Poi sappiamo benissimo, questa è la funzione sociale. Se fossimo degli psicologi, non so se c'è qualcuno che viene da questa disciplina e ha queste competenze, sappiamo bene, o comunque lo sperimentiamo nella nostra vita quotidiana, che queste relazioni poi nell'esperienza di tutti i giorni possono avere delle ambivalenze e possono avere anche delle derive, ma per l'ordine sociale la famiglia nasce con questa funzione. Questa, e certamente questa modalità particolare sui generis di unire sessi e generazioni ha subito dai primordi ad oggi dei mutamenti culturali e sociali, quindi la sua struttura è quella di tenere insieme la differenza sessuale e regolare i rapporti tra le generazioni. È ovvio, e va da sé, ed è molto semplice da intuire, che come hanno fatto famiglia i miei nonni è diverso da come la faccio io e probabilmente da come la farà mia figlia, ma sempre questi elementi, ripeto, del patto pubblico che unisce i due sessi e regola le generazioni, questo nucleo, questa cosa che Donati addirittura chiama genoma, cioè è proprio la caratteristica che sta al cuore di questa relazione familiare, la troviamo sempre. Poi come si legano i rapporti tra le generazioni e tra i sessi, questo cambia nel tempo e culturalmente. E proprio su questo cambiamento e proprio sull'analisi di come adesso si strutturano queste si caratterizzano, si strutturano queste relazioni, faremo le nostre riflessioni sui diritti di cura. Però riflettere e comprendere chi sia la famiglia è l'approccio utile a comprendere e a ripensare tutto il tessuto sociale delle nostre comunità e a rifondare anche in un qualche modo il senso civico dello stare insieme. Perché? Perché succede che se noi non ci chiariamo quali sono le funzioni sociali della famiglia, non la riconosciamo nelle sue caratteristiche, rischiamo di non vederla, cioè di non capire che quella è una famiglia, che da lì possono venire delle risorse, che quella famiglia va aiutata in un certo modo, e quindi se non la vedo non la sussidio, se non la sussidio, vi sto anticipando delle cose che poi vedremo in modo più dettagliato, rischio di andare a indebolire anche quei beni che nascono lì dentro e solo lì. Farli nascere da altre parti è molto complicato. Quali sono questi beni? Innanzitutto dobbiamo ricordarci che il rapporto tra la famiglia, tra questo modo di relazionarsi delle persone e la società è sempre stato dai primordi un rapporto ambivalente. La società ha sempre avuto e tuttora ha bisogno della famiglia, un po' per le questioni che vi ho accennato, e anche una paura folle della famiglia. Perché la società potrebbe mai avere paura, secondo voi, della famiglia? Avete delle idee? Cosa? No, una battuta, perché ci sono delle famiglie particolari, forse per quello la società pure una particolare forza del legame. Perché da lì può nascere anche un'inversione rispetto alla società, in qualche modo idee nuove, nuove prospettive, cambiamenti nascono da lì, penso. Questo per la sua generatività, per quanto riesce a produrre non solo sul piano fisico e biologico, ma sociale, e per, mettiamo insieme il contributo anche del suo collega, della forza del legame. Pensate alle società che nascevano dai gruppi, dei clan, rischia, lì vi aiuta a focalizzare un po' il campo, che il clan diventi così forte da diventare il tutto, da diventare la società. Invece la società ha bisogno di potere in un qualche modo, senza avere delle manie di persecuzione o pensare a cose strane, di poterle controllare, questi legami. Questi legami non devono essere così forti, così potenti, e quindi la società ha sempre questo, che è fatta da persone. Non dovete pensare che la società è un deus ex machina che ci sta sopra le teste, tipo grande fratello o Orwell, eccetera, eccetera. Infatti ci sono delle famiglie di cui la società ha molta paura. Esatto, quindi adesso farete un po' tutte le vostre riflessioni, capite che ha la società ha questo atteggiamento ambivalente tra aiutare, sostenere la famiglia perché sia messa in grado di fare tutto quello che la società si aspetta che essa faccia, e fare in modo che però questa generatività, questa capacità della famiglia non diventi troppo, troppo potente. Però la società ha bisogno tantissimo della famiglia. Sto andando un po' per ampi passi, vi do delle suggestioni. Abbiamo visto la necessità di prendersi cura dei nuovi nati, E quindi la società, ad esempio, ha bisogno di potersi aspettare. Cosa, signora? No, dicevo che penso che il ruolo della famiglia sia importantissimo nel prendersi cura dei portatori di handicap. Esatto. Perché se la società dovesse prendersi cura dei portatori di handicap, non so la spesa per la sanità cosa verrebbe. Io ho visto a Monte Crotone due mogli che erano una 24, una 25 anni, che erano a disposizione del marito, reso al midollo, tutti e due. Quindi questi qui, è una vita, non hai vita, né giorno né notte, devi essere sempre presente. Esatto, questa questione della cura e della dipendenza è centrale proprio in quello che andremo a dire. E probabilmente questa dedizione, questa dipendenza, questa interdipendenza trova la sua ragione, il perché si muove, si attiva questa relazione, perché dietro c'è una relazione familiare. Diversamente si farebbe fatica a trovare un perché di un atto, di una negazione personale per un altro. Quindi dicevamo, la società ad esempio ha bisogno di potersi aspettare da due genitori un patto coniugale finalizzato alla crescita dei figli. E se ci pensate, e quindi ci pensano quei due lì, Tizio e Caia, ad occuparsi di Mario, Lucia, Francesca e ad assolvere tutte le necessità di questi soggetti. E se ci pensate, anche gli istituti giuridici che rompono la famiglia, che cancellano giuridicamente il legame familiare, pensate separazione e divorzio, in realtà la società li ha congegnati in modo tale che i diritti dei più deboli, i diritti di cura, vengano comunque tutelati e non ricadano sulla famiglia, sulla società. Nella società, perché se ricadessero nella società succederebbe quello che diceva la signora, si arriverebbero a dover gestire dei costi che sono insostenibili. Tant'è che proprio per questa ragione dei costi e della fatica che i servizi sociali hanno a dover far fronte alla rottura dei legami familiari, alcuni anni fa, anche in ambito non cattolico, hanno iniziato a proliferare i corsi in preparazione al matrimonio. Qual era la finalità? Diversa da quella antica e dalle fondamenta forti dell'accompagnamento al sacramento del matrimonio, ma la funzione laica di questi percorsi era quella di capacitare, di rendere consapevoli questi due che si prendevano una serie di responsabilità pubbliche, che quelle responsabilità poi, una volta prese, andavano portate a termine, perché piuttosto preferisco renderti consapevole di questo e che tu rinunci a questa responsabilità piuttosto di dovere io, società, sobbarcarmi i costi di questa cosa che, se dovesse dilagare, comporterebbe appunto per il tessuto sociale dei costi enormi. Quindi occhio, la società di nuovo si tutela da questo e rimanda dentro al privato, potremmo dire, alle relazioni tra i singoli, questi doveri. Però la società, quindi, da un lato abbiamo visto, ha paura, ha bisogno, non può fare a meno della famiglia. Perché? Perché in essa nascono i beni più preziosi che fondano, che costituiscono la società. Quali sono questi beni? Proviamo a calare un minimo nella realtà. Innanzitutto quello che diceva il Signore, la generatività. La famiglia, per come è fatta, è capace di generare figli non solo dal punto di vista naturale, ma anche biologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale. Pensate alle vostre esperienze, i vostri figli, non avete finito il vostro compito quando li avete messi al mondo, quando li avete adottati, eccetera, ma il vostro compito dura per tutta la vita, perché continuamente, giorno dopo giorno, li accompagnate nelle scelte, nell'inserimento al mondo del lavoro, eccetera. E quelle sono tutte pratiche, modalità, processi di generazione. Gli date vita rispetto, e loro con voi, nel senso che lo scambio poi è reciproco, rispetto a tutta una serie di funzioni sociali, e la società se li aspetta da voi, non da qualcun altro. Siete voi, siamo noi che aiutiamo i figli, a volte anche senza starci troppo a pensare, a fare i passaggi dal naturale al culturale, dal pubblico al privato. Siamo noi che li socializziamo, gli spieghiamo come si fa o come si può provare a fare per stare nel tessuto sociale. Questo non è da dare per scontato e avviene quotidianamente nelle nostre relazioni familiari. Poi ci sono tutta una serie di relazioni, altre quelle educative nella scuola eccetera, che rafforzano questa funzione, ma la prima funzione è in capo alla famiglia. Un altro bene, qual è un altro bene, un altro prodotto della famiglia? L'abbiamo visto in apertura, la cura, e poi vedremo come può diventare un diritto. Nasciamo troppo deboli per badare a noi stessi e stiamo in molte fasi della vita in una condizione di dipendenza dall'altro. Questo può avvenire per ragioni naturali, fisiologiche. All'inizio nasciamo troppo deboli, nella fase ultima della vita siamo impoveriti da una serie di funzioni e abbiamo bisogno. Può essere che anche in fasi intermedie ci troviamo, per via di una patologia, di un handicap, a dover dipendere in parte o interamente dall'altro. E il richiamo di questa cura, di queste responsabilità di cura, è nelle relazioni familiari. Il dono, si impara a donare in famiglia, che è teatro per eccellenza del dono, e da lì questa accoglienza, questo dono si porta nella società. Cosa accadrebbe se un genitore chiedesse il conto di quello che ha dato al figlio al compimento dei 18 anni? Allora, questo è un modo molto banale per esemplificarvi cosa significa che dire che nelle relazioni familiari la norma che le guida è quella della reciprocità al dono. C'è uno scambio, si dà, ma senza di segnare su un foglietto 29 giugno ti ho dato questo, 28 luglio ti ho dato quest'altro, aspettando un ritorno. Magari il ritorno anche proprio nella relazione genitori figli ci sarà, non sappiamo quando, non sappiamo come e non necessariamente, intanto si dà e si riceve. La fiducia è un elemento che è alla base della società. Noi nel quotidiano ci muoviamo, operiamo continuamente grazie alla fiducia. Pensate alla crisi economica 2008, tutti ci hanno detto, ci hanno messo nella testa che è stata una crisi di fiducia. Ma la fiducia dove si genera? Non è che si genera nel mercato, è fondamentale per il mercato, è fondamentale nelle relazioni sociali più ampie, ma io imparo che cos'è la fiducia, imparo a esperirla e attuarla in famiglia. In che modo? Nel momento in cui faccio i primi distacchi, la mamma mi dice: rimani all'asilo, ti divertirai, alle 4 ti verrò a prendere. E io inizio a sperimentare cos'è la fiducia perché alle 4 rivedo il volto che so riconoscere della madre, della mamma o del papà che mi viene a prendere, e così mi consolido nel maturare fiducia. Un giorno, grazie a questa maturazione, a questa esperienza, probabilmente sarò capace di fidarmi non del volto della mamma, non del volto del papà, non del volto del fratello, ma di un'istituzione o di un altro generalizzato, o che se firmo un contratto che do 20.000 euro e questo mi deve dare la macchina, in quel momento di vuoto tra la cessione del denaro e la cessione della macchina c'è una sospensione, seppur breve, seppur tutelata da tutte le forme di contratto e di tutela eccetera giuridica, che si basa sulla fiducia. E la fiducia nasce però nei rapporti, si dice face to face, faccia a faccia. Se non si sperimenta così, si fa fatica poi a recuperare fiducia e a iniettare fiducia nella società. L'impegno sociale, anche questo si impara in famiglia. Ci sono decine e decine di ricerche fatte anche dai colleghi dell'Università Cattolica di Milano, che hanno tutto un filone psicologico sull'orientamento prosociale che viene trasmesso in famiglia. Ci sono numerose ricerche che fanno vedere che i figli di genitori impegnati nell'associazionismo, nel volontariato, tendono a replicare, non è una regola aurea, però tendono a replicare questo impegno proprio perché l'hanno in un qualche modo esperito, assaporato nel quotidiano dentro a relazioni di fiducia. L'ospitalità, l'accoglienza dell'altro, l'accoglienza del diverso, in primis si sperimenta in famiglia. Il nuovo nato è l'altro, il diverso, il fuori dal gruppo per eccellenza. Arriva e bisogna iniziare a fare i conti con questo esserino che piange, urla, ha fame e fa la cacca e non ci spiega nient'altro. E noi dobbiamo saperlo accogliere nel nostro gruppo. Si pensi poi al grande contributo dato fattivo dalle famiglie all'industrializzazione. Pensate in Italia a tutto il ruolo che hanno avuto le imprese familiari, al trasferimento di professionalità. che è potuto avvenire sulla base di legami di fiducia interpersonali. Se si tolgono questi elementi alla società, la si fa crollare su se stessa. Provate a immaginare, è un po' un esercizio così futuristico, ma che ha un suo fondamento. Perché quelle che abbiamo appena esaminato sono le matrici simboliche su cui si basa la coesione sociale, lo stare insieme, la solidarietà. E potremmo quindi dire la società nel suo complesso. Tutto questo insieme di beni va a costituire un qualcosa che prende il nome di capitale sociale familiare. Che cos'è il capitale sociale familiare? Beh, è un capitale perché tutte le risorse che abbiamo elencato vanno in un qualche modo investite. Non si può pensare di avere fiducia utile ad una serie di meccanismi se non si investe in fiducia. Non si può pensare di avere atteggiamenti di reciprocità e di dono o di ospitalità o di generatività se non li si attua per primi. Quindi è un capitale perché come tutti i capitali, come il capitale economico, ha un suo valore, ha un suo senso se lo investi, se è capace di generare in un qualche modo altro denaro. È sociale perché ha a vedere con le relazioni sociali, non con le singole persone, e va a costituire tessuto sociale. Cioè è sociale perché questi beni nascono dentro alle relazioni, ci spiega molto bene il professor Donati. Da soli, io da sola non posso produrre fiducia, distribuire fiducia, ho bisogno dell'altro per veicolare questo bene, e sono al contempo base di quelle stesse relazioni. Qual è la questione però? Che se fino adesso tutto il ragionamento in un qualche modo fila, in realtà c'è tutta una corrente di pensiero, una corrente proprio anche accademica, che a un certo punto emerge negli anni 50 e dice: no, la famiglia non può essere in nessun modo vista come la fonte, il luogo, lo spazio, l'insieme di relazioni che producono questi beni. Questi beni, questo capitale sociale che riconosciamo che esiste, riconosciamo essere fondamentale anche per tutto il contesto politico del nostro stare insieme, c'è, esiste, ma inizia ad esistere fuori dalla famiglia. Tutto quello che si, cioè dalla famiglia in poi, esclusa la famiglia. Tant'è che inizia a svilupparsi questo termine che forse avrete già sentito, di familismo amorale. L'avete mai sentito? Allora, questo termine viene coniato nel 58. Da uno studioso americano che si chiama Banfield. E cosa c'entra lo studioso americano con noi? Beh, c'entra perché per coniare questo termine, questo concetto, è venuto in Italia, ha fatto una ricerca empirica in Lucania e ha studiato come si organizzavano le comunità lucane dell'epoca e ha detto: cari ragazzi, alla fine il risultato della mia ricerca è il seguente: l'arretratezza di questo territorio fino agli anni 50 Italia meridionale, l'arretratezza di questo territorio è dovuta al fatto che le famiglie che lo popolano, che lo abitano, attuano delle pratiche privatistiche e sono tutte concentrate, queste famiglie, questi nuclei, a massimizzare i propri vantaggi interni alle relazioni, relazioni troppo forti, e non sono capaci di trasferire quei beni, quei vantaggi, quella forza all'esterno. Quindi tutto quello che nasce dentro a quelle relazioni familiari è solo a vantaggio privato, privatistico diremmo, di quei membri, e non dà niente alla società, all'esterno. È per quello che questo territorio è arretrato. Se questo territorio, queste comunità non fossero così, passatemi questo termine che non usa Banfield, famigliocentriche, non avessero questa forza dei legami, tutto dallo sviluppo politico allo sviluppo sociale, economico di questi territori sarebbe molto più fluido. Da lì parte una corrente di pensiero molto forte, tuttora presente. L'opera di Banfield è veramente uno spartiacque in letteratura importante, che dice tutto quello che si produce in famiglia non è utile al sociale, il sociale si fa da sé fuori dalla famiglia. Il concetto è quello di familismo amorale, che poi viene ripreso da Putnam, non so se questo... se questo autore l'avete citato e l'avete sentito citare, che a metà degli anni 90 dice che ciò che dà linfa al tessuto democratico e partecipativo di una società è tutto ciò che si sviluppa al di fuori della rete delle relazioni primarie. Si può dire che questo familismo morale può essere la base della mafia. Esattamente. Quindi, tanto per chi arriva il concetto. Esattamente. Il principio è questo. Quindi qual è l'idea da sociologo? Quella di dire che manca in questo tipo di letture, le ultime che abbiamo visto, quelle che usano l'etichetta di familismo amorale, manca quello che appunto Donati chiamerebbe uno sguardo analitico, che va veramente a analizzare, non osserva solo in modo grossolano dall'esterno le cose, va a analizzare analiticamente i meccanismi sociali che mettono in relazione i beni interni alla fiducia, i beni interni alla famiglia, la fiducia, la reciprocità, con le virtù sociali, cioè quel meccanismo, quel qualcosa che permette che quello che nasce lì dentro si trasferisca all'esterno. Non è che in assoluto quello che nasce lì serve solo lì e viene usato solo lì, non è che in assoluto le famiglie sono fatte così. Ci possono essere dei contesti, adesso ci arriviamo, dei contesti sociali, delle comunità, delle pratiche culturali che accentuano questo comportamento chiuso, privatistico della famiglia. La sfida è capire quali meccanismi invece sociali permettano di tradurre queste proprietà, questi beni, dall'interno all'esterno, come traghettarli, come mettere in comunicazione, in dialogo, potremmo dire, la famiglia, l'interno, con l'esterno, il privato col pubblico. Quindi non è che a priori la famiglia ha questa funzione e muore lì. La famiglia può dare tanto, l'abbiamo visto prima, bisogna capire come fare, come rendere possibile questo disvelamento, questa apertura. Tant'è che poi ci sono degli studi più recenti, alcuni che fanno vedere, anche siamo all'inizio degli anni 2000, c'è questo volume edito da Mondadori che si chiama L'Italia fatta in casa, che fa vedere molto bene come l'Italia, rispetto ad altri paesi occidentali, nord europei, ma anche oltreoceano, anche americani, ha tutta una serie di arretratezze perché è troppo basata sulle pratiche di aiuto, di scambio, di cura delle relazioni quotidiane. Prende addirittura, ad esempio, in questo volume questi indicatori. Uno, la vicinanza, la distanza, cioè la vicinanza in termini di chilometri tra il nucleo familiare d'origine, immaginate i genitori, e il nucleo nuovo, cioè dove vanno ad abitare i figli una volta che vanno a convivere o che si sposano, e fa vedere come in Italia queste distanze siano assolutamente ravvicinate, come i nuclei dipendano per tutta una serie di compiti, di cure, non solo, gli uni dagli altri. Questo è un fattore, secondo questi autori, di depotenziamento, di desviluppo, perché non porta l'autonomia degli individui e dei gruppi. Oppure l'altro esempio che fanno è quello delle pratiche alimentari, per cui dicono: in Italia le famiglie spendono, occupano, impiegano troppo tempo nella preparazione dei pasti, invece la modalità di alimentazione tipica degli Stati Uniti, molto fast food, al di là che tu vada realmente in un fast food molto meno praticata tra le mura domestiche, permette di liberare tempo per tutta una serie di attività esterne, mentre in Italia c'è tutta una pratica interna ai nuclei familiari che in un qualche modo depotenzia lo sviluppo. Quindi questa è una corrente. Poi arriva uno studio abbastanza importante nel 2008, perché su scala europea, che dice, fa vedere come al di là delle latitudini, per gli europei, quindi non stiamo parlando solamente dell'Italia, la famiglia intesa come nucleo di persone legate dai legami di generazione che vi ho fatto prima, che possono essere coabitanti o non, rimane una risorsa fondamentale per gli individui, non solo in Italia, cioè gli individui intervistati dichiarano di essere assolutamente in un qualche modo legati, dipendenti dalla famiglia, riconoscerli tutta una serie di funzioni, perché fornisce sostegno e aiuto a diversi livelli, il livello finanziario, il livello pratico e il livello emotivo. Allora ci si chiede di nuovo, ma allora questa famiglia, questo modo di stare insieme, frena lo sviluppo o lo agevola? La risposta è interessante e sblocca un po' la questione incancrenita dal punto di vista del dibattito accademico del familismo amorale, dicendo un utilizzo, una dedizione esclusiva alla famiglia avviene, quindi una chiusura, potremmo dire, tra quelle mura domestiche, tra quelle pratiche, tra quelle relazioni, avviene nei contesti dove le istituzioni pubbliche dei diversi livelli territoriali, se pensate al caso italiano, sono deboli o assenti. Quindi occhio, cari analisti, cari politologi, cari sociologi, che quando osservate questa chiusura che vi sembra estrema, vi sembra causa di un indebolimento, di un mancato sviluppo, è non perché la famiglia è naturaliter, costitutivamente portata a fare così, ma perché come meccanismo di difesa tende, come quando la tartaruga si ritrae nel suo guscio, a chiudersi, e quindi gli individui tendono a rifugiarsi nella famiglia, non perché è un fatto naturale questo ritiro, ma come strategia necessitata dalla mancanza di socialità pubblica. Quindi non parliamo di, qui facciamo un piccolo passo in avanti, non parliamo di familismo amorale congenito lo dico io, insito nelle relazioni familiari, ma quando osserviamo questo tipo di meccanismo e di pratica, questo gruppo di studiosi dice, chiamiamola disaffiliazione, cioè osservo che il contesto sociale, le istituzioni pubbliche che dovrebbero essere qui per riconoscermi, abbiamo detto, come famiglia, quindi come insieme di relazioni capaci di fare tutta una serie di cose, e dovrebbe riconoscermi, vedermi, e quindi dire, ah, hai tutti quei compiti, aspetta che con questa cosa, con quest'altra ti aiuto, non lo fa, non mi riconosce, non mi aiuta, e quindi io ariccio per poter reggere, per poter farcela, per poter continuare a produrre quei beni o parte di quei beni, mi chiudo. Quindi la famiglia, abbiamo detto, non è costitutivamente fatta così, ma è una vittima, in quanto fa così è perché è vittima del contesto sociale. Scusi. E finisco sulla frase, e non certamente l'attore che produce la degenerazione del contesto sociale, come ci aveva detto Banfi. Prego. Un'osservazione. Sì. Manca la tenuta sociale e la famiglia si chiude e quindi difende i suoi membri. Ma qualcuno ha fatto qualche osservazione sul fatto cosa succede quando manca la tenuta sociale e la famiglia poi non c'è? Perché penso, forse dico una cosa molto banale, non so fino a che punto corretta, no? Ma dico, ok, nel meridione manca lo Stato e i membri si difendono. Ma negli Stati Uniti, con i figli che vanno a 3-4 mila chilometri di distanza dai genitori, con la famiglia che si disgrega, con questi che escono subito, eccetera, manca la famiglia, lo Stato non interviene, perché nei momenti poi di bisogno dell'individuo non è che, non mi pare che gli Stati Uniti, diciamo, cioè, non hanno una tradizione di welfare, una tradizione di assistenza, e quindi poi le persone non hanno neanche la struttura tartaruga della, esatto, famiglia, quindi c'è poi il poveretto che sta in mezzo alla strada, esatto. Esatto, quindi o ha un'assicurazione o nessuno pensa a lui. Esatto. Qualcuno di quelli che ha criticato il modello italiano della Basilicata, eccetera, si è poi posto il problema di vedere cosa succede nella civiltà cosiddetta avanzata americana. Come? Basta guardare a Bologna. Oppure basta. Il 50% delle famiglie, chiamiamole così, sono mononucleari a Bologna. E questo sarà il nostro problema. Milano ha fatto una recente indagine e le famiglie unipersonali. Ma Bologna, città, grande città, 51% dei gruppi familiari sono mononucleari, per cui un problema enorme di... C'è l'individualizzazione, perché, quindi... Perché, diciamo, su due aspetti, uno quello che diceva il collega, quindi la ricaduta pratica di queste considerazioni, ma mi ponevo il problema un pochino teorico, se qualcuno di quelli che ha fatto queste osservazioni sulla moralità, familismo morale, eccetera, poi ha avuto l'onestà intellettuale di guardare cosa succedeva in casa sua. No, questa riflessione nei fatti non c'è. Questa sua riflessione è reale, cioè se la famiglia non tiene, si chiude, salvaguarda quello che può, adesso vi do anche qualche dato più recente, si indebolisce il tessuto sociale. Se il tessuto sociale si indebolisce, influisce sulla famiglia, sulla tenuta della famiglia, quindi tendenzialmente passiamo, se potessimo segmentare il tempo, da una fase di individualizzazione, di spaccatura, siamo tutti dei singoli, degli unipersonali, e quindi a quel punto però, se non tiene nemmeno la famiglia, tutto ricade sulla società e la società dovrà trovare un modo di organizzarsi, e noi intravediamo le prime lacune e i primi problemi. Guardate anche nel sistema sanitario, nel sistema sociale, e tutto tende ad andare in crisi, bisogna capire da che parte in un qualche modo arginare il problema. Comunque dal punto di vista storico e dello sviluppo del dibattito quella considerazione non viene fatta. Ci fu uno studio, un carotaggio, dice lì, se volete sapere, lì non si sono sviluppati perché è successo questo, è stata colpa della famiglia. E lì, come spesso accade nella scienza, nonostante i suoi obiettivi, le sue idee, è stato tutto assunto come un dogma, e da lì, per sgretolare tutto questo, ce n'è voluto e tuttora si sta lavorando. Quindi già vedete che comunque in questo sviluppo che vi ho fatto per salti, le considerazioni che avete fatto voi, si vede, si è visto molto bene il concretizzarsi di una dimensione, un andamento proprio della dimensione familiare, quindi del privato e del pubblico, no? Dell'interno e dell'esterno. Questa però realtà, privato e pubblico, non è una realtà che è sempre esistita. Questo derivato, la famiglia è un interno rispetto al sociale, che è un esterno rispetto al pubblico, è un derivato dell'epoca moderna, con l'industrializzazione è avvenuto. Con l'epoca moderna c'è stata la rottura della coincidenza, che prima era totale, fra fattori, elementi riproduttivi e elementi produttivi. Una volta, fino all'epoca dell'industrializzazione, tutto coincideva dentro la famiglia. C'era tutto l'elemento della generatività, delle relazioni, contemporaneamente, contestualmente a tutto l'elemento della produzione. Era tutto lì. E le generazioni sessi si organizzavano all'interno di quello spazio. Con l'industrializzazione c'è questa rottura che noi abbiamo sperimentato, abbiamo dentro, e che diamo per scontata, ma non è sempre stato così. Sperimentiamo questa rottura, si crea un interno, ed è poi tutto lo sviluppo. Noi siamo impregnati da un'idea borghese, moderna di famiglia, ma non è sempre stato così, tra il privato, che ha delle funzioni, e il pubblico, che ne ha delle altre, sono separate, non è sempre stato così. Questa rigida divisione dei compiti, nel momento in cui è nata con l'industrializzazione, si è retta sulla figura del, passatemi il termine in inglese ma ve lo traduco subito, però ve lo dico perché in letteratura è molto presente, sulla figura del male breadwinner. Chi è il male breadwinner? È il maschio che procaccia il pane, ok? E questo fenomeno è stato chiamato da uno studioso, uno storico inglese che si chiama Crunch, è stato chiamato compromesso sociale di metà secolo. A un certo punto si è creato sia internamente alle mura domestiche sia fuori un compromesso che diceva: quello che è cura, espressività, emotività, generatività, che è emozioni, che è relazioni, sta dentro al privato ed è una cosa, e dentro al privato ci sta l'angelo del focolare che è la donna, fuori ci va l'uomo, il maschio. Che perché va fuori? Perché deve, prima faceva tutto dentro, adesso deve andare fuori a guadagnare, a conquistare il pane, che poi, dopo che l'ha conquistato, lo riporta dentro al privato e dà vita e sostentamento a quelle relazioni familiari, a quelle relazioni private. Quindi questo è stato chiamato compromesso di metà secolo. E tutti i sistemi di welfare, i sistemi sociali che si sono sviluppati, si reggevano sulla figura del male breadwinner. Era l'uomo che andava a lavorare, che era il destinatario di una serie di sussidi quando c'erano, dove c'erano, di tipo sociale. Lui era il perno di questo rapporto tra privato e pubblico che era stato creato con l'industrializzazione. Prima non c'era. E quindi abbiamo un momento, alcuni decenni che si reggono su questo compromesso. Le donne in casa, la cura è dentro, è privato, l'uomo è fuori, è pubblico, è socializzazione, è lavoro, attività. Poi nel frattempo cosa succede? Avanzano le trasformazioni di cui prima abbiamo accennato. La famiglia è sempre stata organizzata con le funzioni che abbiamo visto, però inizia a innalzarsi il tasso di istruzione femminile. Con risultati molto più alti, molto migliori di quelli dei maschi. Vi è stato un massiccio ingresso delle donne nel mondo del lavoro, una progressiva contrazione delle nascite. Tenete presente che adesso in Italia siamo a 1,3 figli per donna e non è garantito assolutamente il ricambio generazionale, e quindi è una società che non è sostenibile, chiusa la parentesi. Si è consolidato il fenomeno del posticipare le nascite. Si posticipano, però abbiamo ancora a che fare con una matrice abbastanza umana, biologica. Posticipandole diminuisce la possibilità che si realizzino tutte le nascite desiderate. Tenete presente che c'è un gap molto, molto forte, molto netto e costante nelle generazioni di donne italiane, per cui il numero reale di figli per donna è 1,3, quindi 1, perché grazie a Dio lo 0,3 figli non si riesce a fare. E il numero di figli desiderati e dichiarati è sempre 2, e quindi c'è balla quell'1 che darebbe sostenibilità al sociale, ma non c'è il contesto perché avvenga. L'innalzamento dell'età, l'allungamento delle aspettative di vita, e tutti questi fenomeni hanno portato quella che Donati nei suoi lavori indica con il nome di morfogenesi delle relazioni familiari. Le relazioni familiari cambiano, si trasformano, mantengono quella matrice che abbiamo detto, ma entrano in una profonda crisi. E quindi tutte queste trasformazioni che io, per ragioni di tempo e poter arrivare un po' alla conclusione del ragionamento, vi ho solo accennato, portano, provate a immaginarle velocemente, una crisi di quel compromesso di metà secolo. Non regge più questa divisione tra cura, emozioni, privato, vita pubblica, lavoro e socialità. E cosa succede? Che il compromesso salta, viene meno, si inclina rispetto alla situazione, ci dicono tutta una serie di studi, delle donne. Cioè la donna è quella figura, quel ruolo che, diciamo, esemplifica questo problema. Esse, le donne, sono diventate coloro sulle cui spalle grava quello che una studiosa che si chiama Hochschild chiama doppio turno, che è una cosa molto, molto semplice. Cioè hanno un doppio turno, una volta che hanno finito il turno di lavoro in fabbrica, così iniziano il secondo turno, che è quello della cura familiare. Questi fenomeni hanno portato in evidenza il tema controverso e ambivalente della cura. Cioè la cura, abbiamo detto che è una funzione centrale delle relazioni familiari, avviene lì per tutta una serie di ragioni che abbiamo anche visto. Però chi assolveva il compito di cura si trova in una situazione di crisi, perché questo compito non è più sostenibile e perché il compromesso privato pubblico non regge più. E quindi nella cura, che è la funzione primaria, principale della famiglia, in un qualche modo diventa paradossale, perché se la osservi da un certo punto di vista è un diritto che emancipa, ti dà libertà, ti genera, produce, apre, dall'altra parte costringe determinati soggetti a rinunciare ai propri, in alcuni casi, diritti proprio fondamentali, umani, perché il turno in molti casi di cura non è semplicemente doppio, ma è triplo, quadruplo, e si lede la possibilità di, ovviamente qui c'è tutto il portato anche della riflessione femminista, di fare tutta una serie di altre funzioni, perché se ti prendi cura in un certo modo dell'altro non puoi fare altre cose, quindi la cura diventa in questo modo e a questo punto della storia un elemento controverso, perché è un diritto che emancipa, che cresce, che sviluppa in qualche modo anche una società sostenibile, perché se non si prende cura dentro le relazioni familiari di alcune realtà, chi lo fa? Dall'altra parte vincola. Quindi la cura diventa non soltanto un nodo irrisolto, un nodo problematico della vita pratica delle donne, ma una questione irrisolta nella teoria della cittadinanza. E qui arriviamo ai diritti, cioè può essere una lesione di un diritto, se la cittadinanza è quell'insieme di diritti e di doveri del cittadino. La cura diviene un problema legato alla giustizia, perché le donne sono i soggetti che si trovano obbligate a fornire attività di cura in virtù di un'iniqua divisione dei compiti fra i generi, sia tra le mura domestiche sia nel contesto sociale più ampio. Inoltre, le principali teorie politiche e sociali riferite al contratto, sapete che la cittadinanza viene interpretata come un contratto sociale, assumono come attore di base un individuo. Cioè il contratto sociale sussiste, esiste, tra individui razionali, autonomi e indipendenti dalle cure degli altri. Quindi il problema della cittadinanza vista come contratto sociale salta nel momento in cui abbiamo casi come quelli che citava la signora, dove l'individuo, l'essere umano, non è totalmente razionale, può avere degli handicap che ledono la sua completa razionalità e ragionevolezza, è un individuo completamente non autonomo e quindi dipendente dall'altro. Quindi a quel punto questo contratto sociale come si sviluppa? Si arriva a un punto che appartiene alla filosofia politica, a dire: e questi soggetti allora sono fuori dalla cittadinanza? Non hanno diritti? Bisogna che allora cambiamo il paradigma riferito alla cittadinanza e quindi proviamo a trovare una soluzione diversa da quella del contratto sociale. Un contributo che io trovo molto interessante, che sto cercando di sviscerare a pieno e che è anche piuttosto diffuso, e quindi vi propongo una teoria molto, molto diffusa, molto nota, proviene da una accademica, da una filosofa politica che si chiama Martha Nussbaum, americana, che deriva il suo contributo da il premio Nobel Amartya Sen, che è un economista che avrete sentito. Questo contributo è basato su una su che cosa? Va a rivedere i principi della cittadinanza, dei diritti e dei doveri e fonda tutto il suo approccio sul riconoscimento della dignità umana e dell'idea di uomo presa da Aristotele come essere animale dotato di bisogni. Partiamo dal riconoscimento che lì c'è un essere umano che ha dei bisogni. Garantire cura diventa allora non semplicemente un diritto, ma una capacità. Cioè l'idea della cura e del riconoscimento della cura non come un diritto che viene necessariamente o soltanto riconosciuto da un'entità esterna che è lo Stato in virtù di un contratto sociale, ma io ti devo riconoscere questo diritto declinato, ci dicono questi studiosi, come capacità, cioè tu devi essere in grado, grazie agli aiuti, ai sostegni, ai contributi dello Stato, ma non solo, di esplicare le tue funzioni umane nel tuo contesto. Ovvero, non devo dare a tutti la stessa cosa, perché allora garantisco l'uguaglianza. Non so se avete visto quell'immagine che rappresenta questo concetto, per cui ci sono tre omini. Sono tre rialzi, tre scatole diverse. Allora, se io do, mettiamo che questi omini devono assistere a qualcosa, allo spettacolo di Vasco Rossi. Se io do a tutti lo stesso rialzo per poter accedere alla visione del palco, io come soggetto esterno, mettiamo che sono la società, mettiamo sono Stato, sono uno Stato egualitario perché do a tutti lo stesso gradino, lo stesso mattoncino. Il problema qual è? Che io sono alta 1,20 m, lui è alto 2 metri e la signora è alta 1,50 m, quindi quel mattoncino che è alto 20 è dato sì a tutti in ugual modo, ma probabilmente per me che sono 1,20 m, quei 20 centimetri non cambiano nulla, quindi ho un diritto riconosciuto, ma non mi capacita, non mi rende capace di assolvere le mie funzioni, adesso scusate l'esempio stupidissimo di vedere un concerto, ma di accedere ad una pratica e quindi essere un individuo autonomo che nonostante il suo 1,20 m dà il suo contributo nella società. Ok? Quindi lo Stato, la società sì, è a posto perché ha dato a tutti la stessa opportunità, ma a me è come se non l'avesse data, al dottor Moruzzi dà un qualcosa che non gli serve assolutamente, perché con i suoi 2 metri accedeva benissimo allo spettacolo. Magari gli serviva, non so, un assegno per la formazione, l'istruzione dei figli, che ne so. Ok? Quindi anche il diritto di l'idea di uguaglianza va rivista e va opportunamente declinata. E secondo me il contributo, che se volete è un po' sottile, ma vi invito a rifletterci, di Nussbaum, preso da Sen, è importante perché dice: lasciamo stare i diritti garantiti dalla Costituzione, messi lì, scritti, che sono importanti, sono fondamentali, ma nel quotidiano, soprattutto nei temi, lei proprio si occupa di cura, quindi non l'ho presa a caso, quando ci sono dei bisogni specifici, contingenti, contestualizzati, non ci arroghiamo solo ai diritti che sono espressi anche in modo generico perché devono rispondere a tutta una serie di situazioni, parliamo di capacità, cioè cerchiamo di capire cosa serve a quel bambino, a quella donna, a quel... A quel ragazzo per poter far parte come cittadino di quella comunità. Allora io ti capacito, ti do un qualcosa che di volta in volta sarà diverso, sarà pensato opportunamente, che ti dà l'opportunità effettivamente di avere una vita umana dignitosa. E quindi anche l'attività di cura, il prendersi cura degli altri in un contesto capacitativo cambia la visione, cambia la visione perché osserverà la cura non soltanto dal punto di vista della dipendenza di colui che ha bisogno di ricevere questa cura, ma l'aspetto della cura declinata come non semplicemente come diritto, ma come capacità, guarderà anche a colui che offre la cura e penserà quindi a sostenerlo, ad aiutarlo. E questo è tutto il tema che non possiamo sviscerare, ma secondo me è molto interessante, vi do uno spunto, del caregiver. Chi è il caregiver? Scusate di nuovo questo inglesismo. Il caregiver, termine appunto che viene dal nord, dall'inglese, dal nord Europa, è colui che porta, il giver, dare, che porta la cura. In Emilia-Romagna sono 300.000 i caregiver familiari, cioè coloro che in virtù delle relazioni familiari che abbiamo visto avere una specifica funzione, danno cura a familiari, a parenti e persone vicine. L'Emilia-Romagna un anno fa ha emanato una legge, la legge nazionale non esiste, c'è una legge regionale in questo momento volta al sostegno del caregiver. Perché? Perché questa persona, il caregiver, tendenzialmente è una persona donna, molte volte, sta emergendo tantissimo il problema dei caregiver minori, che è un problema sociale gravissimo, grossissimo, e sono sovraccaricati di tutte queste aspettative che la società ributta nel nucleo familiare e che sono però vittima di quello che viene chiamato in psicologia e in psichiatria burnout, rischio di collassare. Se collassano loro non solo fisicamente ma psichicamente, cosa si fa? E quindi vanno affrontate tutta una serie di questioni. Prego. C'è la legge regionale, ma quella legge regionale cosa dice? Esatto, arrivavo qui. Ve l'ho, la mia idea originariamente era quella di lavorare sulla legge. Io volevo fare proprio anche quando ho incontrato Moruzzi, stavo prendendo contatti con chi l'ha ideata, eccetera, perché pensavo di poter fare un pezzo di ricerca, cioè capire quella legge come impatta nella realtà dei fatti. Cos'è che, come spesso succede, per quello anche che è importante passare dal concetto di diritto al concetto di capacità, noi abbiamo degli strumenti giuridici e chi più di loro, cosa più di loro garantisce dei diritti, cioè volti a garantire dei diritti, ma assolutamente inattuati e incapaci per lungo tempo di produrre effetti. Infatti questa legge, se uno fa la ricerca da, si dice, da desk, da scrivania, trova questa legge e rimane estasiato. Questa legge è stata approvata, è lì, ha dei principi interessanti, ma non è assolutamente attuata, che è lo stesso problema che ha, seppur diverso, un'altra legge che volevo portarvi due esempi. Questa è la legge regionale, c'è una legge nazionale non sul caregiver, ma è l'unica legge regionale nazionale sul tema della cura, che è la legge 53 del 2000, siamo nel 2017, che è la legge riferita al sostegno all'attività genitoriale di madri e di padri. Quella legge lì viene spesso nei manuali portata esempio come legge esemplare della conciliazione delle esigenze familiari e lavorative, ma in realtà ha tutta una serie di vincoli, per cui se noi andiamo a osservare la sua attuazione, cioè quanto realmente quella legge, quei singoli articoli capacitano, rendono quei cittadini, quelle donne, madri, figlie, quegli uomini, padri e figli capaci di espletare le loro funzioni, il suo portato, il suo contributo si disperde, soprattutto perché quella legge, vi faccio solo una provocazione, poi non posso andare nei dettagli, quella legge è attuata solo in una piccola parte, la parte più nota è quella dei congedi, che è solo uno dei tre pilastri su cui è fondata. I congedi sono tutti pensati sui lavoratori dipendenti, le donne madri oggi, cioè quelle che dovrebbero dare il ricambio generazionale, in poca parte sono lavoratrici dipendenti, quindi quella legge esiste, l'Italia agli occhi dell'Europa dice io sono a postissimo perché ho un congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi, andiamo a vedere quante donne in età da maternità la possono utilizzare, poi vediamo se ho il diritto di cura garantito. Come si esce, come si rende come si dice, ogni società quindi umana è una società in cui continuamente si ricevono e si dispensano cure a diversi livelli. Per questa ragione ogni società deve capire attraverso quale modalità dare risposta alle richieste umane di bisognosità, cioè di bisogno, e di dipendenza, attraverso forme che siano compatibili, sto riassumendo quello che ho detto fino adesso, col rispetto di chi è beneficiario di quelle cure e con l'assenza di sfruttamento e quindi col rispetto di chi le dispensa quelle cure. La risposta che la nostra filosofa politica americana ci dà, quindi la risposta di Martha Nussbaum, è quella che per uscire dall'ingiustizia insita nella famiglia, perché lei vede l'ambivalenza della cura insita nelle strutture familiari, è quella di valorizzare i diritti come capacità, rendere queste capacità funzionanti, e ciò che permette di capacitare queste, di rendere fruibili questi diritti, secondo lei, sono le politiche pubbliche responsabili. Quindi rimanda all'esterno del nucleo, cioè ci deve essere qualcuno che quella famiglia di nuovo la riconosce, riconosce che lì avvengono degli scambi di sostegni importanti e capisce come sostenerla. Però la legittimità dell'azione dello Stato rispetto alla famiglia a fini di giustizia discende dalla constatazione della forte interdipendenza costitutiva tra regolazione statuale e modi di essere della famiglia. Le politiche pubbliche come possono effettivamente capacitare queste relazioni? Con un'equa ridistribuzione del lavoro di cura familiare, e questa però è una pratica che è più che che è più culturale che strutturale, non lo puoi comandare al marito, compagno di ripartire i compiti, al figlio di prendersi cura quanto la figlia del, e quindi questa è una cultura che si deve sviluppare attraverso tutta una serie allora di sperimentazioni, di pratiche locali, ma non può essere ordinata dall'esterno, non puoi imporre alla famiglia di comportarsi in un certo modo. Un ruolo attivo e alleviante dello Stato rispetto a questi compiti, e anche tutto un mondo del lavoro che è capace di riconoscere questi bisogni in capo alla famiglia. Allora si apre tutto il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che non deve solo essere garantito dallo Stato, dal soggetto pubblico, ma deve avere anche un attivarsi da parte delle organizzazioni lavorative. È per questo allora che l'altro suggerimento che vi do, e poi mi taccio e sono sconfinato, è quello per cui i diritti, al di là che oggi li pensiamo in termini di cura familiare, ma anche in altri contesti, forse ve ne ha parlato Prandini, vanno pensati, lo so che è uno sforzo enorme, io ve la butto lì, come un diritto che non necessariamente, non soltanto proviene dallo Stato, ma è un diritto, si dice, policontesturale, cioè il mio diritto, in questo caso di cura, proviene dall'impegno attivo, riflessivo, personalizzante di tutta una serie di attori che nel mio contesto sociale riconoscono il mio bisogno di cura e mi rendono capace di espletarlo. Detto altrimenti, ci sarà la legge regionale che speriamo venga resa attuativa il prima possibile con le linee guida alle quali stanno lavorando, ci sarà un contesto di lavoro, un'organizzazione, un privato, detto volgarmente, una serie di imprenditori, eccetera, che rendono l'organizzazione del lavoro più capace di adattarsi a questi bisogni. Ci saranno una serie di attori del terzo settore, associazione, capaci di offrire dei servizi non così standardizzati e strutturati come il servizio sociale tradizionale, ma sempre più personalizzati e ritagliati sulle esigenze. Allora, se ci abituiamo per tutta la crisi che ho dato per scontata oggi della cittadinanza statale a pensare che i diritti di cui abbiamo bisogno per continuare nella nostra esistenza possono provenire da diversi attori sociali, e noi siamo un po' il centro, i destinatari di questo mix di diritti, e la sfida in questo momento storico è quella di capire come assemblare in modo giusto ed eco questi diritti, allora credo che lì ci sia la sfida. Pensarli unicamente come diritti che mi provengono dallo Stato come diritti di cittadinanza tradizionalmente intesi, rischiamo di rimanere un po' un po' in mezzo a questa questione e probabilmente di non ricevere tutta quella capacitazione nell'esplicare la nostra attività umana al di là della situazione di bisogno in cui siamo, perché serve sempre di più non una standardizzazione ma una personalizzazione di questi interventi. Bene. Sono le 6:15, un po' di tempo forse abbiamo per qualche domanda, per delle riflessioni. Il tema che è stato affrontato oggi è estremamente ampio e complesso, perché stiamo parlando di un argomento che viene affrontato diversamente da in varie, nella stessa Europa. Pensiamo alla situazione svedese, no? Dove a seguito delle leggi degli anni 70 è stata praticamente, non dico spazzata via la famiglia, ma quasi, no? Non viene riconosciuto, cioè non viene praticamente non, cioè a un certo punto Wolf Palma era convinto che la famiglia fosse un elemento di segregazione della donna e quindi ha cercato di eliminare la famiglia per riscattare il ruolo della donna. Oggi abbiamo il 40% di nascite che avviene senza il partner, cioè con fecondazione artificiale. Oppure situazioni molto diverse che si generano in altre realtà. Io mi ricordo che venne al Pilastro a fare una lezione ai ragazzi Benzolù, che è un marocchino, come sapete, grande scrittore, e disse ai ragazzi: non avete idea là dove lo Stato non esiste, com'è la situazione, riferendosi non solo al Marocco ma anche al sud Italia. La famiglia quindi non basta, non pensiamo che sia sufficiente la famiglia, cioè ci sono gli estremi, no? La Svezia, oppure l'idea che possa bastare una famiglia senza lo Stato. Poi non andiamo in Africa, voi sapete che io ci vado spesso, dove succede di tutto. Le coppie si formano, generano 4-5 figli, poi si separano, in genere la moglie se ne va e la lascia al marito. Ci sono situazioni molto complesse. È uscito un libro di Harari, che è un grande antropologo dell'Università di Gerusalemme, che lui sostiene una tesi tutta diversa, dice che antropologicamente non esisteva la famiglia. Harari inizia da 1 milione di anni fa, arriva fino al Sapiens, lo analizza negli ultimi 100.000 anni e dice che la famiglia subentra solo con le prime coltivazioni del 10.000 a.C., prima non esisteva. Effettivamente, ad esempio, in Eritrea, fino all'arrivo degli italiani, i Cumani, che sono l'etnia più antica dell'Eritrea, quella di, sono neri, sono i Cumani, non sono come gli altri eritrei, l'impatto con i missionari è stato terribile, perché nei villaggi Cumani, per rafforzare il sangue e la razza, quando arrivava uno straniero la prima cosa si offrivano le mogli, e non c'era un senso della famiglia intesa sessuale, cioè la promiscuità era considerata un grande valore, di essere promiscui voleva dire essere sani in sostanza. E ovviamente l'impatto con i missionari fu terribile, furono repressi, perseguitati, le cumane trasformate in prostitute, in genere questo durante il periodo coloniale. Lo trovate nei bei libri di Lucarelli, quando il libro di Lucarelli uno degli ultimi che descrive, appunto, Lucarelli è sposato in Eritrea, descrive queste cumane che venivano trattate dal punto di vista coloniale. Come vedete, situazioni molto diverse, però mi sembra che per arrivare a noi arriviamo al tema attuale della società attuale dell'Italia e dell'Emilia Romagna e del fatto che se non ci fosse la famiglia chissà cosa succederebbe, cioè nel senso che tutto il peso viene scaricato lentamente sulla famiglia. Quando c'è un anziano solo, bisogno di cura, quando c'è la famiglia diventa l'ultimo spiaggia del welfare, cioè siamo quindi. Questo è il punto fondamentale. Ma io non aggiungo niente a quello che è stato già detto nella interessante relazione. Si tratta di capire, indubbiamente, nelle nostre discussioni, nelle conclusioni che poi porteremo a questa tavola rotonda, che tra l'altro sarà la vicepresidente della regione, la Gualmini, che ha la delega anche in provvedere alla famiglia, che sarà una delle coordinatrici della tavola rotonda conclusiva della nostra scuola. Questo tema nella tutela del diritto e della cura, del ruolo della famiglia, è certamente un tema forte che noi porteremo, perché allo stato attuale, se guardo l'assistenza, se guardo tutte le problematiche degli anziani, ma anche le problematiche anche particolari di chi ha ad esempio una malattia cronica, se non è basato su un carico pesante oggi sulla famiglia. Quindi, cosa prego? No, appunto, riguardo questo discorso dell'importanza della famiglia, lei ha sottolineato una cosa molto giusta, cioè ha detto se non ci fosse la famiglia, come andrebbe a finire? Questo secondo me è proprio il tipico segnale di una società che è fallita, nel senso che non si può dire se non ci fosse la famiglia come facciamo. Qui tutti siamo cittadini di una nazione, ci dovrebbe essere uno Stato che contribuisce a queste cose importanti. Io per esempio sono un caregiver, sono uno di quei caregiver che diceva la dottoressa, che è cioccato, mi sono fatto 10 giorni di terapia intensiva e mi hanno tolto ovviamente il mio paziente, ecco, se vogliamo chiamarlo, per motivi proprio fisici. Per cui non si può pensare di scaricare tutto sulla famiglia, dire la famiglia, se non ci fosse. Questo è un errore gravissimo. Poi se vogliamo considerare le aberrazioni della famiglia, perché le famiglie non sono tutte belle, no. Ecco, ci sono famiglie dove c'è la violenza, il omicidio, ci sono cose nascoste che non sappiamo, poi quando si va in pretura si scoprono certe cose inquietanti, ci sono famiglie, come dicevo prima, che hanno un sistema di azione che è contro lo Stato, insomma, sono famiglie anche quelle, tutti gli effetti, che si autodeterminano. Quindi secondo me bisogna cominciare a pensare che una società così è una società sbagliata, una società che pensa solo alla famiglia, che dà tutto il carico di lavoro alla famiglia, è una società che non funziona, questo è il punto. Appunto, che è bene capire. Diciamo, io direi un gruppo di domande, poi lei risponde, perché abbiamo qui. Dopo mi lasciate a qualche tempo hanno Massimo sei un quarto, Massimo sei un quarto. Allora, qui abbiamo già costo, sentiamo qualcuno, prego. Con un aggravante, che sarebbe anche una domanda provocatoria che prende spunto da quello che diceva prima il signore. Si parla di famiglia, ma l'ultima generazione, diciamo, di famiglia basata su 2-3 figli è quella nostra, cioè io sono nato nel 58, due sorelle, il papà quando ha avuto bisogno, più le sorelle che io, è stato assistito, io sono sposato e non ho figli, mia sorella ha un figlio, queste siamo già sessantenni, tra 10 anni, 10, 15 anni, 20 anni, quando sarà il momento, che cosa succederà? Perché non, magari ci fosse la famiglia, pur con tutte le cose che diceva lei, no? Però il problema è che non ci sarà la famiglia. Allora, riprendo una cosa che avevo detto negli incontri, in uno degli incontri precedenti. Forse bisognerebbe incominciare a pensare anche a un concetto di, virgolette, famiglia allargata. Cioè, quando sarà il momento, speriamo il più tardi possibile, che dovesse arrivare il mio turno di non essere più autosufficiente, avere dei problemi, dover andare. Allora, un conto è ritrovarsi da solo in una casa di riposo dove ti mettono in mezzo a 1000 sconosciuti, un conto è cominciare a dire che si prepara il terreno e tu finisci in una struttura dove ci sono o dove arriveranno i tuoi amici, quindi dove si ricostituisce un ambiente sociale da te conosciuto con persone alle quali hai voluto bene e vuoi bene, quindi non hai figli però ci sono gli amici. Se sei da solo in una casa di cura e ti prendono a calci nel sedere, scusate la crudezza dell'immagine, tu cosa fai? Ma se ci sei andato con 5-6 amici o qualcuno che avrà la forza di alzare il dito e lanciare l'allarme, ci sarà. Quindi io vedo una struttura parafamiliare in prospettiva, perché la famiglia di fatto non esiste più per la nostra generazione come colui, come quell'entità che sarà in grado di prendersi cura di me. Vi ricordo che questo tema è stato affrontato dal sindaco nella prima lezione. Vi ricordo che aveva detto attenzione agli anziani che si sono spostati da soli in periferia, quando abbiamo al fossolo le sale di condominio vuote che potrebbero diventare, perché no, delle portinerie sociali, delle infermerie, eccetera. Tema molto interessante. Aveva chiesto dopo lei, però prima il signore. Sì, volevo così portare un'esperienza rispetto al rapporto tra società e famiglia nella questione della cura. C'è una bella pubblicazione qualche anno fa, fatta dal professor Trabucchi, che forse il dottor Burzi conosce bene, e presso l'ASL ha fatto una ricerca nel contesto dell'ASL di Brescia sul fenomeno delle badanti, dove si evidenzia in modo molto preciso prima della crisi e dopo la crisi. Prima della crisi, dove l'economia tira e quindi le donne sono nel ciclo produttivo, eccetera, le badanti vengono, le badanti dell'est vengono reclutate perché il processo di cura deve essere affidato a qualcuno rispetto agli anziani soprattutto, ma anche magari ai bambini, eccetera. Quando la crisi espelle di nuovo manodopera dal sistema produttivo e prevalentemente le donne, si genera il fenomeno opposto, le badanti vengono rimandate a casa proiettando un fenomeno nei paesi di origine e le donne assumono di nuovo il processo di cura con spesso generando un livello professionale di questo fenomeno, nel senso che si mettono addirittura in rete, scambiano i clienti, diventa una professione di ritorno. Magari una faceva l'operaio in una fabbrica, torna a casa a curare i propri genitori anziani, ma si mette a disposizione dell'altro tempo libero per curare altri genitori. E questo secondo me è un esempio estremamente interessante dell'interazione tra processi familiari e processi sociali e processi economici e la rispettiva integrazione o condizionamento. Confrontato con il numero, Donati dava il numero delle famiglie monocellulari a Bologna, che è impressionante. Prego. No, io non sto a parlare della mia esperienza perché ho una mamma 8 anni eletto, carrozzina eletto, quindi è una storia molto lunga. Ma noi parliamo sempre di famiglia. Il signore ha parlato, diciamo, a parlare di famiglia allargata. Io non ho gli ultimi dati statistici, però mi ricordo che avessi, che poi fu anche una trasmissione televisiva, che in questo paese abbiamo già 1.600.000 qualcosa di individui che vivono da soli. Quindi dobbiamo pensare una società che si sta muovendo, sta cambiando, quindi dobbiamo dare delle garanzie anche dei diritti, di debiti. Come posso dire, non è che tu te li danno, perché hai dei diritti che non ti vengono dati, te li devi lottare per poterli avere, e questo mi sembra che sia giusto. Allora vogliamo ricominciare di pensare, di creare una società che delle garanzie, dei diritti devono essere dati, che dal mio punto di vista purtroppo non è così, dall'esperienza familiare. Io metterei l'attenzione sullo Stato. Cioè, è chiaro, la famiglia è chiaro, le società e famiglia non vanno più, ma è lo Stato che deve cambiare la mentalità, cioè deve non più ragionare in modo generale, complessivo, ma la capacità, cioè la persona, i singoli, e deve favorire cose piccole che poi fatte in tanti diventano cose grandi. Non deve ragionare sui grandi numeri che poi non accontentano perché sono fuori dalla realtà. Quindi è lo Stato che deve cambiare, deve avere una capacità, più una capacità, più nel merito delle cose, e lì ritrovare i diritti. È lo Stato che deve cambiare. La famiglia come dire, non saltare, però voglio dire, modulare in tantissimi modi. È lo Stato che deve, lui stesso, perché oggi le leggi le fanno nel modo più sbagliato possibile, cioè senza tonnellate di leggi che non ci stanno, non vengono applicate. Sì, esatto. Parliamo di assegno di cura, dobbiamo parlare di assegno di cura, è una legge anche regionale. Sì, sì, ma infatti è il discorso che si faceva, cioè io vorrei l'attenzione sul momento legislativo, cioè non bisogna più fare altre leggi nel vecchio modo. Cioè, è questa, e vale invece non singoli, ma con la capacità di incidere sulle piccole cose, che tante piccole cose fanno le cose vere. Quindi c'è il ruolo tutto della burocrazia, perché la burocrazia è in grado comunque di farti fallire il funzionamento di una legge per la complessità, mancanza di fondi. Io velocemente una cosa. Prego. Io insegnavo, dopo sono in pensione dall'università, sono andato a insegnare italiano dalle scuole di Madre Teresa di Calcutta in via Terrapieno. Quando andavo io c'erano 60 donne che venivano da tutti i paesi, anche dall'America Latina, per fare le badanti. Adesso non ne arriva più quasi nessuna. Ma un'altra cosa, parlando adesso, mi piacerebbe sapere se è stato fatto uno studio. Quindi questo è un segnale importante sulle badanti. Sarebbe importante fare uno studio su quante persone che hanno perso il lavoro, quante donne hanno preso a carico loro di fare la badante all'ammalato o alla persona anziana. Perché poi, per quanto riguarda i singoli, io faccio un esempio della mia scala. Io abito in Fossolo 1, dove si è andati a abitare nel 70, che erano tutte coppie abbastanza giovani. Nella mia scala, che ci sono 14 appartamenti, 8 siamo singole, o singole nel senso vedove, 6-7 vedove, una che si sono divise col marito, una che è invecchiata ma è signorina. Unita la percentuale, ecco. Perché parlavo di cose diverse. Non è poi questa. Che sia poi il singolo, che sia un fenomeno che sta emergendo adesso, è un fenomeno grandissimo, perché ne abbiamo parlato con il sindaco, abbiamo parlato anche con il quartiere, lì c'è un sacco di singoli uomini o donne che sono rimasti o vedovi, che vagano qui per il quartiere e non... C'è una sala di condominio che potrebbe... No, che è non c'è, non c'è, infatti... Hanno eliminato la sala di condominio. La sala di condominio non c'è, quindi stiamo cercando adesso... Io ieri sono andata dalla presidente del quartiere Salen, anche perché mio marito era stato tanto per tantissimi anni consigliere del quartiere, a dire di proporre che ci sono questi grandi... logge sotto a pian terreno, ci cioè sono gli ingressi e queste, come si chiama adesso, portici enormi che vanno avanti enormi, se si potesse vedere, che sono di proprietà di ogni scala, però di creare una sala comune dove la gente, ecco lì, perché abbiamo la parrocchia che adesso ha un po' di sale, però sono utilizzate per tante cose. E quindi questo qui è un fenomeno che sta emergendo fortissimo a Bologna. Quindi c'è un problema di riprogettazione urbanistica, dell'abitazione. Secondo me è anche un modo di cultura. Io ho visto una trasmissione televisiva che mi è piaciuta da morire. Tre persone, come dice la signora, che vivevano nel stesso palazzo, che vivevano solo perché mia nonna, il marito, mia mamma, erano tre donne. Non avevano, dal punto di vista economico, la possibilità più di pagare affitto, luce, gas, eccetera. Si sono trovati, si sono parlate, hanno detto: ma perché dobbiamo pagare tre affitti? Si sono messi assieme in un appartamento solo, hanno lasciato due appartamenti, quindi hanno più possibilità economiche di affrontare il problema. Allora dico che dal mio punto di vista è anche un fatto culturale, e per questo che dico che la società sta cambiando, ma dobbiamo cercare di capire quali sono i veri problemi e cercando di dare soluzioni, ma cambiare cultura e mentalità. Ma io ho proposto, noi siamo due sorelle e due fratelli, tutti viventi, e ci sono trovati in Romagna con mio fratello che ha una casa enorme, una di quelle mine antiche dell'Ottocento, ho detto perché tra poco quando qualcuno di noi avrà anche difficoltà non ci mettiamo insieme con questa villa qui, oppure prendiamo qualcos'altro adatto, che ognuno abbia la sua camera da letto singola con un bagno singolo, e prendiamo poi un personale, so, due persone che ci accudiscano. Noi ci stiamo già pensando questa cosa, ma questa cosa me ne aveva anche parlato quando io frequentavo l'università, Achille Antidò, che aveva seguito degli studi fatti nei paesi Svezia e Norvegia, dove già si attuavano delle cose così. Bene, sapete che il nostro ospite ha un problema serio, una battuta velocissima, tutti i vostri interventi sono interessantissimi e da qui si potrebbe proprio prendere lo spunto per riprogettare un'intera città a partire dai quartieri. E proprio per questo credo che l'idea appunto che vi ho fatto in apertura della famiglia non voleva certo dire tutto questo lo deve fare la famiglia, nasce così, ma poi appunto se non la si riconosce, non la si sostiene, questa implode e poi ha tutte le sue trasformazioni. Quindi il tema della cura che nasce lì come elemento abilitante in realtà rischia di avere una doppia sfaccettatura, che è anche un aspetto appunto di ingiustizia. Quindi credo che tutti questi diritti che appunto anche proprio nell'approccio di Nussbaum, io non ho insistito, però lei si dichiara proprio liberale, quindi tutto deve essere riconosciuto all'individuo, cioè il diritto non è della famiglia, è dell'individuo, credo vada davvero, non aggiungo niente rispetto a quello che ho detto, valorizzato in una duplice direzione, quella del diritto come capacità proprio, e quindi allora veramente sono in grado di risolvere un problema concreto, e grazie al lavoro reticolare plurale di un'intera comunità, perché il diritto è sacrosanto, ma non dobbiamo pensare di risolverlo soprattutto su questi temi soltanto con delle leggi cornice, perché le risposte a cui voi avete accennato, che sono sacrosante, sono quelle che danno la soluzione reale, possono emergere non grazie ad un diritto umano sancito con un proclamo, ma grazie ad un contesto urbano e sociale che si mette all'opera grazie al contributo di tanti soggetti. Ci sarà chi ridefinisce lo spazio fisico, chi forma le persone capaci di intercettare questi bisogni e chi, ed è sempre quindi un aspetto delle politiche pubbliche, locali e territoriali, pensa che la soluzione non è più lo sportello sociale in capo al comune aperto, che ne so, dalle 8 a mezzogiorno, ma è un referente dentro ai condomini o in certi quartieri, come delle sperimentazioni interessanti che stanno avvenendo a Milano. Quindi va ridisegnato tutto, e quindi bisogna pensare anche proprio al tema delle politiche pubbliche, quindi del welfare, quello che ci permette una qualità di vita dignitosa su base territoriale e innovativa, e tutto ben venga tutto quello che dalle menti e dalla creatività dei cittadini emerge in questo senso, perché ovviamente i cittadini di Bologna avranno una parte di gradino su certi aspetti già garantito, e quindi non serve lavorare lì, ma magari ci sono altri aspetti che non sono problematici per i cittadini milanesi, che invece necessitano di una certa attivismo, o ci sono nel contesto bolognese delle risorse che si possono attivare, che magari non ci sono a Brescia piuttosto che a Modena, e quindi è la comunità che si deve riattivare, non in modo tradizionale ma in modo... La prossima volta il signore ci dice in Italia. Bene. Volevo dirvi che manterremo un rapporto con i nostri relatori, sia per avere bibliografie da leggere, sia per attivare, stiamo tentando di attivare un blog semplice, che non occorre iscriversi tutte queste cose, partendo da ogni lezione. Chiederemo quindi un breve abstract di 7-8 righe alla professoressa, e quindi questa discussione la continuiamo partendo dal blog dell'associazione in modo molto semplice, dalla prima pagina, lo troverete andando presso la Noi ci rivediamo a settembre, vi abbiamo chiesto un contributo a consegnarci i questionari che servono per valutare meglio. A settembre è prevista anche una riunione degli iscritti, oltre che qual è la prossima lezione? Ci ricordiamo la data, il bravissimo. Io volevo fare scusate la maledizione, a presto. Ho già parlato con qualcuno di voi, però stiamo facendo una ricerca sull'accesso alla salute e abbiamo pensato col professor Moruzzi di se qualcuno voleva essere interessato a effettuare una piccola intervista semistrutturata con me, che sono la ricercatrice, per avere un po', diciamo, la misura, la temperatura, insomma, delle vostre esperienze rispetto alla, a tutto il mondo della sanità, perché abbiamo intervistato ovviamente associazioni, medici, insomma, strutture private, quindi avremo piacere, ci siamo confrontati da poco, di se qualcuno vuole essere interessato, si tratta di una chiacchierata più o meno di un'oretta, quindi se mi lasciate con le vostre recate ci sarò io che nei prossimi giorni vi contatto. Mi raccomando, rispondete positivamente.